con la loce di Hexagonal e Stigmate. Nadi persegona di Os. That's the Carlo del progetto Violent Nox, Antichrist di omicidio da Firenze. Laura Spirit Crusher da Milano, Jean-Claude Bertou in Val d'Aosta, Rosa La Vita dalle parti di Bologna, a Venezia Gin con Eugen Vintras, Tabula Rasa, Arianna di Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster. E poi il medico della peste, Mariano in quel di Berlino, Francesco Cornello a Bergamo. Allora, cominciamo con un progetto proveniente da Milano. Sto mettendo a posto le ultime cose. Dicevo, un progetto proveniente da Milano. Il nome è Pavor Nocturnus. Progetto fondamentalmente dedicato all'ambient, che proviene da Milano, con dietro Eugenio Mazza che coordina il tutto, fa la musica eccetera, che è uscito con un ultimissimo lavoro dal nome Bosch. La Totenschwan è una delle etichette insieme a Diodron tra le più attive e interessanti degli ultimi anni, etichetta di Marco Valenti, alla quale aderisce anche Rosa La Vita. E quindi, tornando a Pavor Nocturnus, da questo Bosch cominciamo a conoscerlo attraverso le prime due tracce: Estrazione della pietra della follia e Paradiso terrestre. E vado a salutare di nuovo Dez De Carlo from Boston del progetto Violent Nox, progetto elettronico che abbiamo conosciuto qualche lunedì precedente e che ascolteremo presto con qualche novità. Saluto Like Awake, lui al pari anche di Pavor Nocturnus e tante altre realtà, sono la conferma vivente dell'ottima scena Dark Ambient che c'è qui in Italia. Valore appunto confermato da questo Bosch di Pavor Nocturnus, dietro al quale si cela il nome di Eugenio Mazza. Da sottolineare poi la incessante opera di Marco Valenti, la sua Toten Schwan Record. Ci siamo ascoltati Estrazione della Pietra della Follia e la terza traccia dal nome Ascesa all'Empirio. Intanto un abbraccio a Wurnus Allen, la grossa realtà piemontese Industrial Noise, e Isa Etual da Milano. A confermare ancor di più questo valore testé accennato, ci andiamo a Venezia da Gin con gli Eugen Vintras. Suntuoso ultimo lavoro dal nome Sokushin Jobutsu, incentrato sul concetto dell'automummificazione di scuola buddista, al quale Jin ha dedicato questo album diviso in fasi. Esattamente in tre fasi. Noi ci ascoltiamo la seconda fase con la prima e la seconda traccia. Ebbene, un inizio di prove tecniche di trasmissione all'insegna dell'ambient più siderale, più algido, più rarefatto. Strutture ambient effettivamente impenetrabili, questi climi così lugubri che hanno caratterizzato sia Pavor Nocturnus e sia Jin. Quest'ultimo con Sokobushi Jobutsu, ispirato alla cultura religiosa giapponese e non solo. Per Jin, già detentore del marchio Death in Venice Production, registrato all'Antisocial Studio sul finire del 2020, mentre il buon Antonio ci dice che a breve usciranno anche delle nuove cose riguardanti Jin, che speriamo di avere anche qui a prove tecniche di trasmissione. Salutiamo Massimo Oders Mascheroni, in evidente vacanza. In netto contrasto con questi climi abbastanza plumbei, lasciamo un attimo l'Italia e ci andiamo in Perù, naturalmente sfruttando l'ennesima compilation di Raffaele Pezzella. Questa Anthology of Experimental Music from Peru. Un tocco di decisa avanguardia lo dà questo Marcelo Meiado con Viento en Circulos, e poi anche un'altra breve testimonianza, che sarà l'ottava traccia per Brageiki con la Luna Nueva para el Perú. Thank you. dunque due episodi estratti dall'antologia dedicata alla sperimentazione dal Perù, naturalmente ad opera di Raffaele Pezzella e ad opera dell'Unexplained Sounds Group Production. Il loop malato, il loop malsano, il vento circolare, così si chiamava la traccia di Marcelo Maiado. E poi il breve estratto con scricchioli annessi, Luna Nueva para el Perú di Bracheichi. Una compilation eclettica, come si può anche sentire sotto la mia voce, che è testimonianza di una scena peruviana assolutamente eccitante e interessante da scoprire. Hemos traído Valeriana porque somos hermanas, flor de amapola. Ringrazio Like Awake delle belle parole. E noi andiamo avanti, lasciamo il Perù, torniamo in Italia, andiamo da Rosa La Vita, un nome che trae spunto dall'arte di Marcel Duchamp. E Rosa La Vita ha stampato nell'aprile di quest'anno un suo ultimo lavoro dal nome Tools, sempre attraverso la Totenschwan. Da Tools ci andiamo ad ascoltare il basso cavernoso di Trey Pennell, basso suonato dalla stessa Rosa La Vita, artista che nasce in realtà come soprattutto come interesse verso le arti visive, ma poi una parte di sé l'ha dedicata anche alla musica. Dunque, da Tools, Trap e Nail per Rosa La Vita. basso distorto, il basso storto, effettivamente dagli umori malsani, è diciamo uno degli elementi principali dell'arte di Rosa Lavita, insieme ai rumori carpiti dall'ambiente e immessi in questa sua ultima incisione, Tools, per la Totenschwan anche in questo caso. Elena Micheli, che salutiamo, come saluto Alessandra Dotto al confine con l'Abruzzo. Dunque, altre due tracce da Tools e ne metteremo altre due la prossima settimana. Adesso la nostra visitina a Berlino con MDS 51, la fremente Electro Industrial di questo duo tedesco, che si va a confermare con l'ultimo lavoro Incubus, anche se è uscito in contemporanea con un altro disco autoprodotto. Un disco autoprodotto che si chiama DNA, tornando a Incubus, dunque anche questo autoprodotto, devo dire. Loro hanno bazzicato anche la Sleepless Records, etichetta di Eric Van Bontergem. Ci ascoltiamo Matrix e LCF. Agent infectieux. patíbulo. Le pulsioni electro-industrial di MDS-51, ossia Massive Distorted System, mentre il numero 51 non ha un significato preciso, questo almeno ci ha detto Enrico Günther Straub, è uno dei due, e l'altro Mike Lutz, effettivamente anche debitore della esperienza degli Eichtürzend, Neubauten e Test Department. We'll be right back. anche se loro hanno immesso una robusta iniezione di elettronica oltre che le lamiere di attacco. Salutiamo Andy Rivieni di Attualità Nera ed Enrico Ponzoni di Sokushin Butsu Project, la sua avventura insieme a Massimo Oders e Mascheroni. 21:58 ed è l'ora di Diamanda Galas. Dal quarto lavoro omonimo ci ascoltiamo la seconda parte della incredibile Panopticon, incredibile come tutta la produzione primaria di Diamanda Galas.